Ehi, sono ancora io. Mi riconosci? Forse no. Ma ti voglio dire una cosa importantissima. Ti prego, ascoltala attentamente. È solo una storia vera. Volevo passare solamente un po' più di tempo in tua compagnia. Magari conoscerti meglio. Ma praticamente ora è impossibile. Questo è solamente uno sfogo. Sono solo frasi, parole, pensieri che non ho avuto il coraggio di dirti. Oh, dedicato a te. Dedicato solamente a te. Solo a te. Ehi, ehi. Sì, sì, sì. Dedicato a te. Dedicato solamente e unicamente a te. Sì. Oh, qui. Nazem C. Yeah. Ah, sì. Ah. Vai. Mi ricordo una serata, non avrei mai immaginato di incontrare una fata. Ecco, e lei si presenta tutto ok, e già dopo pochi secondi aveva stregato i pensieri miei. Si presenta, piacere, io gli do la mano mentre cominciavo già a sudare. Non riuscivo neanche più a parlare, non so, forse per paura di sbagliare nel dire qualcosa di sbagliato. Ma una cosa è certa, che tu mi hai abbagliato con quel tuo sguardo accattivante. Ora sei la protagonista nella mia mente, ti penso e mille sono i pensieri. Ma anche se mi cimenterò in nuovi sentieri, tu sarai sempre detto di me. Cara, questa è una serenata rap dedicata solo a te. E se ti stai chiedendo il perché, è perché sei buona cazzo. Dedicato a lei che ora vive nel ricordo. Dedicato alla persona che nuota nel mio sogno. È speciale e io mai la scorderò, anche se so che mai più la rivedrò. Dedicato a te che ora vivi nel mio sogno. Dedicato a te che ora nuoti nel ricordo. Sei speciale e io mai ti scorderò, anche se so che mai più ti rivedrò. Lo hai capito, o almeno hai già sentito cosa ti voglio dire. Dovevo farlo in tua presenza, ma il tempo non riuscivo a trovare. Non riesco a dimenticare quell'istante, noi due distesi sul letto. Parlavamo mentre sentivo la pioggia cadere sul tetto, creando un'atmosfera fantastica. Tu sei una ragazza magica, fissavo il tuo viso e all'improvviso nel dormiveglia pizzicavo il tuo sorriso. E dentro di me sentivo lo stomaco che si chiudeva, così che il mio corpo dal tuo mai si staccava. Io lo ripeto, non sei umana, all'apparenza meravigliosa, ma dentro aliena. Ti prego contagiami, ti prego baciami ancora come se fosse l'ultima volta. In una serata per me troppo corta per questa mia cotta, tu mi hai dato veramente una botta al cuore. E adesso sono qui che canto pieno di dolore, e questa registrazione è solamente per te e al tuo splendore. Sei tu il mio sole, mi trasmetti calore. Il tuo calore, il tuo calore. Con il tuo ricordo che nel mio profondo lo sai mai non muore. Dedicato a lei che ora vive nel ricordo. Dedicato alla persona che nuota nel mio sogno. È speciale e io mai la scorderò, anche se so che mai più la rivedrò. Dedicato a te che ora vivi nel mio sogno. Dedicato a te che ora nuoti nel ricordo. Sei speciale e io mai ti scorderò, anche se so che mai più ti rivedrò. Se, se, ora prendo il treno in partenza sul binario dell'immaginazione. Arriverò presto da te, no, è solo un'illusione. Ma se mi darai almeno un'occasione, sarò disposto a ritornare nella tua regione. Direttamente qui, nazi il cerimone, percorrere più di 1000 chilometri, 9 ore di attesa. Ma adesso concludo con questo. Pausa. Dedicato a lei che ora vive nel ricordo. Dedicato alla persona che nuota nel mio sogno. È speciale e io mai la scorderò, anche se so che mai più la rivedrò. Dedicato a te che ora vivi nel mio sogno. Dedicato a te che ora nuoti nel ricordo. Sei speciale e io mai ti scorderò, anche se so che mai più ti rivedrò. E questa è dedicata solamente e unicamente a te, tipa. E se ora mi stai ascoltando, ti saluto. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Vai su questa via, vai su questa ferrovia e corri via, dedicata a te.